Squish! Streets! Flats! Gloop! Vram! String! Zag! Vraps! Skitch! La radio in TV! No, com'è? Fumetti alla radio! Fumetti alla radio! Oh, oh. Gulp! Squash! Spam! Spritz! Spritz! Beh, uno spritz però a quest'ora, Credo asilo. Bentornati a Chiedo Asilo, un saluto da Kappa. Un saluto da Drago. Ecco, e noi siamo all'asilo, sì. Mentre ci sono gli altri che invece sono già al Salone del Mobile. No, è il Salone del Libro, qua nel Salone del Mobile. A Torino. Ecco, tipo Caccia, Caccia è lì a Torino. E noi siamo qui senza acqua, senza caffè. E dopo di noi c'è Focus Economia e anche Marisoni a Torino, ecco. E noi invece ci saremo dopo domani. A Torino, sabato a mezzogiorno. Mezzogiorno. Allo stand di Radio 24. Sì, però non saremo alla radio, solo allo stand. Ma come? Ma gli altri sono sia alla radio che allo stand, noi facciamo radio uno speciale stand. Perché siccome noi duriamo 10 minuti, lì invece duriamo un'ora, casino. Però approfitteremo di quest'ora per presentare una grandissima novità di Chiedo Asilo, cioè i fumetti di Chiedo Asilo. I fumetti di Chiedo Asilo che saranno visti per la prima volta in assoluta anteprima dai nostri ascoltatori a Torino, quelli che verranno a Torino. Quindi invece, spettatori. Invece quelli che non possono venire a Torino, non hanno voglia di fare tutta la strada fino a Torino. E poi se lo vedono su internet. Su internet, sulla pagina homepage di Radio 24. Sì, ma solo dopo la presentazione ufficiale, dopo, magari anche qualche giorno dopo, perché diciamo, i fumetti voglio dire fanno parte della nostra letteratura, sì, però, da sempre, sì, no? Però diciamo che noi siamo alla radio, quindi io voglio capire quelli che adesso, se noi vogliamo spiegare adesso a quelli che ci stanno ascoltando che cosa faremo sabato, funziona perché radio il fumetto, insomma, la radio il fumetto, se Drago il fumetto si guarda la radio, lo sai, basta un suono, una musica, e tu ti cambi d'ambiente, ti vai dall'altra parte del mondo, ti inventi una storia. Col fumetto è la stessa cosa, basta una didascalia e tac. Intanto nel canile municipale. Tenente Drago, tutti i cani del canile municipale si stanno trasformando in bassotti geure geure. E allora presto, li acchiappi, acchiappali. Li devo acchiappare o accalappiare? Tenente Drago, è lo stesso, li accalappali. Calappiali. L'altra invece un... Tenente Drago, si dia da fare presto, prima che lo spirito di Ra si vendichi su di noi. Quattro settimane dopo, in Egitto. Halar! Ma quale Egitto di Egitto? Qui siamo in terra sacra di Arkmenistan e abbiamo qui soldato occidentale bastardo che è ostaggio, vero, tenente Drago? Cosa dici? Cosa fa? Fame! Cosa parli con bavaglio? Tu non si capisce niente, hai fame? Ha fame? Vorresti mangiarti dei cheeseburger, occidentale bastardo? Allarme, cheeseburger di carne di maiale, di carne in feto di occidentale bastardo! Vitello! Vitello? Allora dammi anche a me bacon cheeseburger. No, bacon non si può, ma io voglio. Bavaglio te lo tieni, mangio io cheeseburger. Allarme. Poi, dopo 3 cheeseburger. Papà, perché sei lì fermo impalato? Olictus. Papà? Olictus? Che cos'è? È morto. Nonostante tutto, a Gotham City. Sai una cosa, Batman? Sono stufo delle solite serate passate davanti alla TV io e te. Ci vorrebbe un diversivo. Ben detto, Robin. Sai cosa ti dico? Quasi quasi prendo la Batmobile, vado a fare un giro lungo i vialoni, carico su un bel trans e lo porto qua. Così facciamo un bel festino nella Batcaverna. Bravo, guida con prudenza. Auguri, buona caccia. Questa potrebbe essere una notte memorabile. Sì, memorabile. Ma stai attento con quel Bat Intruder. Batman! Batman! Vedi, Drago, una didascalia e tac, e tu te lo pigli nel culo. Basta che non finisca sempre così. Beh, però. No, speriamo che a Torino anche non in altri modi, beh, perché in realtà infatti, i fumetti che presentiamo non sono questi, non sono questi, ma sono i fumetti che hanno come protagonista, diciamo, almeno per il momento, il bambino Alberto. Sempre lui, però, ma io e te. Vabbè, il bambino Alberto, con tutti sì, i suoi adesso, amici. Diciamo, ne abbiamo due o tre pronti. Presentiamo il primo, Drago, oggi. Sì. Possiamo farlo sentire, poi uno si immagina come Alberto sarà. Insieme al suo amico. Sì, il titolo del fumetto è Super Mario contro lo spread. E ora, bambini, ricreazione. Ciao, Joris. Ciao, Albert. Cosa c'è? Alberto, non sto bene, guarda. Si vede, ma che cos'hai? Non lo so, mi fa male tutto lo stomaco. Mi sembra che ho preso lo spread. Lo spread? Ma in che senso? Nel senso che si sente parlare dappertutto, in televisione, a casa, mia mamma, sta lo spread, sta lo spread. Quello è un male di stagione, me lo sono preso. Ma no, ma quello lì, lo spread è una roba finanziaria, no? Finanziaria di soldi, di capitale. Ma che dici? Praticamente è una differenza, no? C'è questa differenza. Tu sei italiano, hai degli euro, io sono tedesco, li ho uguali. A me mi fa male lo stomaco, vabbè, ogni 30 secondi devo scappare dentro al bagno. Vabbè, allora è la diarrea, cosa c'entra lo spread? Lì ci vogliono gli antibiotici. Ci vuole il medicinale, no? E per lo spread che devo prendere? Per lo spread? Una volta che dici, oh, è lo spread, allora lì non c'è niente da fare. Non c'è dottore che tenga. Lì ci vuole il Super Mario. It's me, Mario! Giocare. Tassa. Pagare. Tassa. Tassa. Il sindacato, togliersi la signora Merkel, demonio, spread, su, spread, su, su, su, su, su, crisi di sistema, crisi di sistema. A mala sorta, beh, abbiamo perso. Che abbiamo perso? Hai perso, stavi giocando tu? Sì, ho capito, stavo giocando io, ma quello di videogioco è tuo. E allora? Ma cosa vuol dire? Un conto è la proprietà e un altro è l'usufrutto. E quindi? C'è una bella differenza, no? C'è lo spread. Ma io te l'ho detto pure che c'è lo spread. Sì, vabbè, Joris, lasciamo stare, dai. Hai visto che figata? Ho visto, no, più che altro io ho visto. Però tu hai visto? Però qualcuno ha sentito e basta. No, mi sa che hanno sentito tutti e basta, Drago, okay. Perché lo vedranno sabato, diciamo, sì, nel pomeriggio. No, allora, no, se continuiamo così, veramente la gente non capisce niente. Allora, andiamo piano. Sabato. Cioè dopodomani. Dopodomani. Alle 12, mezzogiorno. Mezzogiorno. Invece di fare lo spuntino in quei baracci che ci sono nel Salone del Libro, che costa caro e sono, insomma, così cos'ha. Venite. Ecco, fate allo stand di Radio 24. Al stand di Radio 24, dove potrete vedere quello che adesso hanno appena sentito. Sì, e vedrete anche make-up in persona. Quindi la gente poi non viene, Drago. Ma come, dai. Allora, sabato alle 12, stand di Radio 24, al Salone del Libro, Chiedo Asilo dal vivo, presentazione ufficiale dei fumetti di Chiedo Asilo. Cioè, più di così. Sì, no, sei stato abbastanza chiaro, in effetti. E poi ci saranno anche gli stessi fumetti sulla home page di Radio 24, però dopo. Quindi, se li volete vedere subito, se siete impazienti, prendete il treno, prendete la macchina e venite a Torino. Anche da Bari, sì, anche da Lecce, sì, anche da Brindisi, sì. Comunque basta una didascalia, capito? Una didascalia e tac. Io con... No, ma non necessariamente. Intanto nei vicoli malfamati della città. Get up, stay on the scene, like a sex machine.